Dammi la birra! Sì, dai, adesso te la passo, dai, poi iniziamo a suonare. Toh, tieni, tieni. No, grazie. Io sono un contadino bianco e quando vado in giro per le campagne non sopporto di vedere razze inferiori intorno a me. E se me il negro gli spacco la faccia, sono un animale di merda. Se vedo uno zingaro gli sparo, perché mi viene a rubare in casa. E se vedo un albanese l'ammazzo, perché puzza più del dettaglio.